24. I gialli della storia. Я не смотрел на часы, я думал, у меня проездной. Ero a casa tranquillo quando mi è arrivata una chiamata dalla stazione radio L'Eco di Mosca. Una giornalista a bruciapelo mi ha chiesto: ha saputo quello che è successo a sua moglie? L'hanno ammazzata. Qui al giornale siamo stati sommersi dai telegrammi, dai fiori e dagli attestati di solidarietà. E il 10 ottobre, al funerale, c'erano migliaia di persone, una folla enorme che francamente non ci aspettavamo. Come si fa a uccidere qualcuno che è armato solo della sua penna? Come si fa? Io una risposta ce l'ho, anche se di politica non capisco nulla. Avevano paura di Anna. O meglio, avevano paura della gente che Anna avrebbe potuto ancora aiutare. Penso che prima o poi il killer di Anna verrà arrestato. Mai mandanti, mai e poi mai. Per il semplice motivo che qui in Russia non è mai successo nulla di simile. Oggi a Mix24 raccontiamo il giallo della morte di Anna Politkovskaja, la giornalista più amata all'estero e più temuta dal Cremlino. È stata uccisa nella sua casa di Mosca il 7 ottobre del 2006 con 4 colpi di pistola. Ma di che cosa si occupava Anna? Di lei sappiamo che aveva firmato molti articoli sulla guerra in Cecenia, sulla tragedia della Dubrovka e su quella di Beslan. Buonasera a tutti dal TG3. Era la giornalista più famosa della Russia, stimata e amata per il suo coraggio e per la sua indipendenza. Aveva svelato gli orrori della Cecenia e denunciato gli abusi del governo e dell'esercito russo. È stata uccisa con 4 colpi di pistola nell'ascensore della sua casa di Mosca. Attorno alle ore 17 del 7 ottobre 2006, era un sabato, la nota giornalista Anna Politkovskaja stava rientrando alla sua abitazione, situata in via Lisnaia 8/12, dopo essere stata al supermercato dello stesso quartiere. La giornalista ha parcheggiato a qualche metro dallo stabile, poi ha ritirato dal bagagliaio le prime 2 buste della spesa e senza sapere di essere seguita si è avviata verso casa. Ha aperto il portone senza timori ed è salita con l'ascensore al suo appartamento, situato al 7° piano. Depositata in fretta le sue buste, la giornalista ha poi ripreso l'ascensore con l'intenzione di tornare in macchina a prendere quel che restava della spesa. Il killer però la aspettava giù a piano terra, proprio davanti l'ascensore. E quando la porta si è aperta, ha esploso contro di lei 4 colpi di pistola in rapida successione. Quindi si è avvicinato ancora e le ha sparato il colpo di grazia alla nuca. E si è subito dileguato. Non capivo perché ci fosse tutta quella gente davanti a casa mia. L'ambulanza, le macchine della polizia, i fotografi. Era tutto transennato e gli agenti non volevano farmi passare. Poi ho tirato fuori i documenti e si sono fatti da parte. Era il figlio di Anna Politkovskaja. Il 10 ottobre del 2006 si svolgono i funerali e a seguire il feretro ci sono più di 1000 persone. C'era soprattutto tanta gente comune. Mi ricordo in particolare di una signora anziana con in mano una cartella in cui conservava gelosamente tutti gli articoli di Anna. Mi disse che non avrebbe più letto nessun giornale dal momento che Anna non c'era più. E mi spiegò che leggeva solo lei, perché solo Anna riusciva a farle capire com'è cambiata e cos'è oggi la Russia. Avete sentito Lidia Yusupova, amica di Anna. Ma che tipo di giornalista era la Politkovskaja? Anna aveva vissuto in prima linea i principali avvenimenti russi degli ultimi 10 anni, a cominciare dalla tragedia nel teatro della Dubrovka a fine dell'ottobre del 2002. Buonasera dal TG1. Sono ore drammatiche a Mosca, dove un comando di terroristi ceceni ha fatto irruzione in un teatro prendendo in ostaggio il pubblico. Chiedono il ritiro delle truppe russe dal Caucaso. Si parla di 700, forse 1000 persone nelle mani di alcune decine di uomini armati pronti a tutto. Dicono di essere kamikaze e minacciano di far esplodere l'edificio. Anna è davanti al teatro non solo per fare il suo lavoro di giornalista, ma si occupa anche di portare acqua agli ostaggi e a fare da mediatore tra il governo e i terroristi. È dura. Pensavo che fosse più facile. Cioè? Cosa ci puoi dire? Sono rimasta molto colpita dalle condizioni psicologiche in cui si trovano gli ostaggi. Sono disperati, sono rassegnati a morire e lo dicono esplicitamente. Che i boivichi siano pronti a morire, beh, questo lo posso capire, in fondo fa parte del loro mestiere. Ma vedere che anche gli ostaggi sono crollati e pensano che tutto finirà male, questa è una cosa che faccio fatica a sopportare. Allora dov'è l'acqua da portare dentro? Non hai altro da aggiungere? Bene, non perdiamo tempo, serve acqua. Uccisi 50 terroristi, morti 90 ostaggi e strage nel teatro di Mosca, dove un comando ceceno teneva in ostaggio quasi 800 persone. All'alba le teste di cuoio della brigata Alfa fanno irruzione usando gas paralizzante dopo che i terroristi avevano cominciato ad uccidere i prigionieri. La solidarietà del mondo a Putin, che ai russi dice: non siamo riusciti a salvare tutti, perdonateci. Mi ricordo ancora tutto, anche i dettagli più insignificanti di quelle ore e di quei giorni. Noi ostaggi non sapevamo che era la Politkovskaja a gestire la trattativa, ma ricordo benissimo che a un certo punto il suo nome è stato bisbigliato ed è passato di bocca in bocca fra le donne del comando terrorista. Anna, Anna, dicevano. È arrivata Anna. Si capiva che la rispettavano e che avevano fiducia in lei. Purtroppo non è servito a nulla, perché poi c'è stato l'intervento delle forze speciali con quel blitz sciagurato. C'era un legame fortissimo tra Anna Politkovskaja e i familiari delle vittime della Dubrovka, nato per la sua capacità di condividere il dolore altrui e battersi per i diritti. A parlarcene Tatiana Karpova del Comitato delle Vittime della Dubrovka e Irina Fadeiva. Noi del comitato abbiamo imparato molto da Anna. In un suo articolo lei scrisse una frase che per noi è diventata una pietra miliare. Diceva: cos'altro ancora permetteremo alle autorità di farci subire? Cos'altro? È stata questa frase che ci ha insegnato a lottare e che ci ha dato poi la forza per andare avanti in tutti questi anni, con dignità e caparbietà. Come si fa a uccidere qualcuno che è armato solo della sua penna? Come si fa? Io una risposta ce l'ho, anche se di politica non capisco nulla. Avevano paura di Anna. O meglio, avevano paura della gente che Anna avrebbe potuto ancora aiutare. Con lei è caduto un muro, il muro della resistenza. Dunque avevano paura di Anna, della sua passione, della sua intelligenza, anche se in fondo Anna era armata solo della sua penna. Ma chi la temeva in realtà temeva proprio questo, un certo modo di fare il giornalismo. Nessuno impediva a me o ad altri miei colleghi di andare alla Dubrovka per portare acqua agli ostaggi. Ma nessuno l'ha fatto. Nessuno, eccetto Anna. Forse per snobismo O forse per mancanza di coraggio, che abbiamo camuffato da finta professionalità, dietro l'idea, cioè, che il giornalista deve sempre essere neutrale. Ma questo è un principio che vale solo in astratto, in una situazione asettica, ideale. Perché la verità è che oggi in Russia un giornalista non può restare indifferente, neutrale. Anna l'aveva capito, e infatti non aveva paura di sporcarsi le mani. Non era più una semplice spettatrice, ma partecipava agli eventi di cui si occupava, con tutti i rischi che questa scelta può comportare. Avete sentito il giornalista Vadim Rykalov? Anna Politkovskaja non aveva paura di sporcarsi le mani. E forse per questo che è stato fatto di tutto per impedire a Anna di occuparsi di un'altra tragedia. Nel settembre del 2004 a Beslan in Ossetia un altro avvenimento è sulle pagine e nelle televisioni di tutto il mondo. Ossetia, Federazione Russa, i terroristi questa volta se la prendono coi bambini, oltre 130 in ostaggio di kamikaze che chiedono il ritiro delle truppe di Mosca dalla Cecenia e la liberazione di alcuni guerriglieri. Non si sa con precisione quanti siano gli ostaggi perché sono stati presi anche insegnanti, familiari. Anche questa volta c'è lo spazio per una trattativa, ma le autorità russe sono contrarie e per evitare problemi fanno in modo che non siano presenti giornalisti scomodi. Come racconta Sergei Sokolov. C'erano diversi giornalisti russi che in quei giorni volevano andare a Beslan per raccontare da vicino quel drammatico sequestro. Due di loro però non sono mai arrivati. Si tratta di Andrei Babinski e Anna Politkovskaya. Non è casuale che entrambi avessero buoni contatti con l'ex presidente ceceno Mashkadov e quindi fossero gli unici in grado di avviare un'eventuale trattativa. Ma non ne hanno avuto la possibilità, perché qualcuno li ha bloccati, prima con le buone e poi con le cattive. Anna mi chiamò da Rostov, dicendo che stava molto male e che non poteva proseguire. Tramite il nostro corrispondente locale sono poi riuscito a sapere che questo malore l'aveva colpita in aereo. Dopo aver bevuto un tè, mi disse, mentre prima stava benissimo. È lì che ho avuto i primi sospetti, ma il danno era già fatto. Erano riusciti a tenere Anna fuori da Beslan. Abbiamo la certezza al 100% che Anna fu avvelenata. Perché rientrata qui a Mosca, lei fece tutte le analisi e le trovarono tracce di uno strano veleno che in seguito le procurò diversi problemi di salute. Una tragedia in Ossetia. Alle 11 di stamane c'è stato un blitz delle forze speciali russe nella scuola occupata dai terroristi ceceni. Sino ad ora si contano 150 morti, anche bambini. Ci sono oltre 600 feriti negli ospedali. Si stima che nella scuola fossero in ostaggio circa 1200 persone. Fosse capitato a me, avrei smesso di occuparmi di dossier scottanti. Lei invece no. Anzi, quel tentativo di avvelenarla la rafforzò nella convinzione che lei era nel giusto e che loro, i suoi nemici, erano solo dei vigliacchi. Era Ilya, il figlio di Anna. L'avvelenamento non la spaventa, anzi le dà nuovi stimoli. Ma chi era Anna Politkovskaya e come nasce la sua passione? Sentiamolo dalla voce dei colleghi giornalisti di Novaya Gazeta. Anna è arrivata qui a Novaya Gazeta nel giugno del 99. Era già una specialista nella difesa dei diritti civili, di cui si occupava da anni. Aveva scritto infatti diversi articoli sui profughi dell'Azerbaigian. S'era interessata ai soprusi e alle angherie subite dai soldati del nostro esercito. Insomma, era un terreno su cui sapeva bene come muoversi. La seconda guerra in Cecenia le offrì subito una grossa opportunità, perché provocò una nuova ondata di profughi e fu naturale che ad occuparsene fosse lei. Lo scelse da sola, liberamente, anche se era chiaro a tutti noi che le autorità russe, a cominciare da Putin, che a quell'epoca era primo ministro, non vedevano di buon occhio che si occupava di diritti umani, soprattutto in Cecenia. La Cecenia è il vero punto debole della Russia di oggi. È la sua coscienza sporca il suo tallone d'Achille. Dal traffico d'armi al riciclaggio di denaro sporco, tutti i business illegali passano dalla Cecenia. Ed è quello il nodo attorno a cui si concentrano grossi interessi economici, politici e militari. Il che vuol dire che chi tocca la Cecenia rischia di morire. Ci sono un sacco di giornalisti russi che si sono fatti un nome e hanno costruito la loro carriera con la Cecenia. Ma nessuno di loro trattava gli argomenti che trattava Anna. Il suo è stato un lavoro sporco, ingrato, di quelli che qui da noi non fruttano né premi giornalistici né riconoscimenti ufficiali. E la Cecenia è un argomento scottante, il punto debole della Russia di oggi, dove passano il grosso delle questioni politiche, militari ed economiche del paese, spesso con situazioni oltre la legalità. Ne parla Zakhalev, leader ceceno in esilio. Anna ha fatto il possibile perché il mondo sapesse la verità sulla Cecenia, sulla Russia e sul suo regime criminale. Da ceceno non posso perciò che ricordarla come una grande donna che ha fatto tutto quello che poteva per fermare la guerra contro il mio popolo. Le dicevamo spesso che per lei non era sicuro stare in Russia e che era meglio trasferirsi qui in Occidente. Ma lei ci ripeteva sempre: non posso andare via, non voglio abbandonare il paese che amo. Al tempo stesso ci confessava di avere paura e aggiungeva: ogni volta che torno a casa penso che possa essere l'ultimo. Viaggiare in Cecenia non è facile, ancora meno lo è stare in mezzo alla gente, e in questo l'aiuta l'amica Lidia Insupova, nome di spicco nella lotta per i diritti civili. Anna non stava né con i federali né con i boivichi, i guerriglieri. Semmai stava in mezzo alla gente. Si preoccupava, cioè, della popolazione civile la cui vita è stata sconvolta dalla guerra. E nessuno ha il diritto di infangarne il nome dicendo che lei era una giornalista faziosa, di parte. Ogni riga che scriveva era il frutto di mille peripezie. C'era da camminare di notte per evitare i posti di blocco dei federali e bisognava cambiare casa spesso per non farsi localizzare dai guerriglieri. In più si mangiava poco e si pativa sia il caldo che il freddo. Ma mai una volta che Anna mi abbia detto «basta, non ne posso più». Non mollava mai ed era sempre disponibile ad ascoltare i racconti della gente. Anche se si trattava quasi sempre di storie terribili, che ti strappavano le lacrime e ti lasciavano svuotata, inerme. Ai giornalisti che coprivano la Cecenia interessavano soprattutto gli scoop, che so, l'intervista a Basayev, piuttosto che l'esclusiva su un nuovo attacco russo. Cose così. Anna invece cercava di dar voce alla gente che subiva, che era stata violentata nei suoi diritti. Lei ha sempre scritto di questo e di nient'altro. Una donna sola, dunque, sola e stanca, così la ricordano i suoi colleghi, e di questo ha approfittato il killer che si è presentato praticamente a volto scoperto davanti casa di Anna il 7 ottobre del 2006. Il 17 dicembre più di 200 giornalisti scendono in piazza per chiedere più libertà e più giustizia. Negli ultimi 15 anni ci sono stati ben 211 giornalisti uccisi sul lavoro. Noi oggi vogliamo ricordarli tutti. Anna Politkovskaya, giornalista di Novaya Gazeta, uccisa a Mosca il 7 ottobre 2006. Per tutti i colleghi uccisi, vi chiediamo un minuto di silenzio. Grazie di essere venuti. Non abbiamo nient'altro da aggiungere. Per noi hanno già parlato le pallottole. I rapporti tra la stampa russa e le autorità sono tesi e questa uccisione suscita reazioni diverse anche al Cremlino, finché a Dresda il 10 ottobre del 2006 Putin rilascia questa controversa e strana dichiarazione. Da действительно Questa persona aveva un atteggiamento critico nei confronti delle autorità russe. Ma è giusto che voi sappiate che lei non aveva alcuna influenza sulla politica russa. Era conosciuta solo nell'ambiente dei giornalisti, nelle organizzazioni per i diritti umani e in Occidente. Ma ripeto, la sua influenza sulla vita politica del nostro paese era minima. Anna Politkovskaja dunque era considerata dalle autorità una giornalista di opposizione. La lista di chi avrebbe volentieri messo a tacere Anna, o peggio la voleva morta, è lunga. A parlarcene sono gli amici della Novaya Gazeta e il leader dei diritti civili, Sergei Kovalov. Può essere stata, ad esempio, la vendetta di qualcuno. Ed erano in tanti ad avere il dente avvelenato contro di lei. Dai federali, di cui Anna ha denunciato non pochi abusi, al clan di Kadyrov, l'attuale presidente, che si è reso responsabile di non pochi misfatti. E si potrebbe continuare, perché la lista è lunga. Se lei mi chiede, è possibile che Putin abbia ordinato questo omicidio? Io le rispondo di no. Perché è impensabile che il nostro presidente abbia chiamato il capo dell'FSB per dargli un compito del genere e questi a sua volta abbia chiamato il suo sottoposto che ha poi trasmesso l'ordine a chi di dovere fino ad arrivare al killer. È uno schema vetusto che resiste ormai solo nei film, non certo nella realtà. Oggi i servizi segreti sanno lavorare in maniera altrettanto efficace senza esporsi più di tanto. Ad esempio armando la mano di un qualsiasi esagitato. A maggio 2014 esce il primo verdetto sull'omicidio della cronista. 5 colpevoli, i 4 organizzatori dell'attentato e l'esecutore materiale. Sono passati 8 anni dall'omicidio per arrivare alla sentenza, ma sui mandanti dell'omicidio di Anna resta il silenzio. La mia vita è difficile, certo, ma è soprattutto umiliante. A 47 anni non ho più l'età per scontrarmi con l'ostilità e avere il marchio di Reietta stampato sulla fronte. Non parlerò delle altre gioie del mio lavoro, l'avvelenamento, gli arresti, le minacce di morte telefoniche e online. Naturalmente gli articoli che mi presentano come la pazza di Mosca non mi fanno piacere. Vivere così è orribile. Vorrei un po' più di comprensione, ma la cosa più importante è continuare a fare il mio lavoro, raccontare quello che vedo.